Spiegherò meglio cammin facendo, se avrete la pazienza di seguirmi. Intanto torniamo indietro nel tempo, all'8 luglio 1593. È il giorno che nasce a Roma da Prudenzia Montone, che morirà prematuramente quando Artemisia è appena nata. Il padre, Orazio Gentileschi, è un pittore in lenta ma sicura affermazione, e di lì a poco la sua pittura prenderà volo nell'incontro con la grande pittura rivoluzionaria di Caravaggio. Si avvicina quindi all'irrequieto pittore lombardo Orazio, entra nella cerchia dei suoi amici, ne trae chiaroscuri contrastati aperti da sciabolate di luce tagliente e teatrale. Di suo stempererà i contrasti con un uso di tinte chiare nonostante tutto e cristalline. Probabilmente anche Caravaggio avrà tenuto sulle ginocchia la piccola Artemisia, dato che ne frequentava la casa. Artemisia, che cresce a bottega con i suoi fratelli più piccoli di lei, è sicuramente di minore talento se le fonti ne tramandano a malapena i nomi e se il padre vorrà solo lei accanto a sé alla corte del re d'Inghilterra. Ma qui anticipiamo i tempi. Date le consuetudini del tempo, Artemisia ha la possibilità di accedere agli insegnamenti d'arte perché li trova in casa e la sua formazione professionale quindi non reca scandalo. Ha talento, segue il padre sulle orme caravaggesche, ma come il padre saprà mettere del suo nella grande lezione impartita al mondo intero da Michelangelo Merisi. In particolare, una capacità di rinnovare iconografie e di mettere in scena con grande effetto drammatico le storie che inizierà presto a raccontare. Intanto si prepara. Accanto agli allievi e agli aiutanti di bottega impara a macinare e mescolare e diluire i colori, esegue le imprimiture su tela, studia disegno e prospettiva, osserva avida e curiosa le opere dei grandi maestri cinquecenteschi che può trovare nelle chiese, nei palazzi frequentati dal padre per lavoro, nei repertori e cataloghi di disegni e stampe con modelli e composizioni che costituivano la letteratura professionale dell'epoca. Come accadeva a tutte le ragazze nelle botteghe d'arte, avrà avuto delle limitazioni nello studiare l'anatomia, perché studiare il nudo ne avrebbe infangato l'onore. Sappiamo però che modella dei suoi studi fu una giovane vicina di casa, la comare Tuzia, e suo figlio. Il passaggio dal XVI al XVII secolo è un periodo molto stimolante per Roma. Finita l'epoca michelangiolesca, dagli ultimi bagliori del languente tardo manierismo cominciano a nascere scintille fiammate del nuovo che arriva e che porta i nomi delle imprese sorprendenti di Annibale Carracci e dei suoi migliori allievi come Domenico Reni, Lanfranco, e poi ci sono Michelangelo Merisi da Caravaggio e Pietro Bernini col suo sorprendente precocissimo figliolo Gian Lorenzo e tanti altri ancora. Riprendiamo a grandissime linee ciò che abbiamo detto finora. Artemisia Gentileschi nasce l'8 luglio del 1593 a Roma, sua madre morirà di lì a poco, suo padre è un pittore, Orazio Gentileschi, di un ottimo livello e seguace delle novità caravaggesche. Roma in questo periodo è un ambiente artistico estremamente stimolante, siamo nel momento della nascita del primissimo barocco romano tra Annibale Carracci, Caravaggio e il giovanissimo Bernini. Artemisia non può forse partecipare agli incontri più importanti, non può partecipare alle serate di artisti delle taverne, ma certo assorbe tutto con grande profitto. Bisogna anche considerare l'altra medaglia dell'essere donna artista a quest'epoca, dove è vero che è tanto difficile diventarlo, ma le poche che vi riescono si trovano al centro di un'attenzione a volte morbosa ed eccessiva, ma che può favorirle se sanno usarla. Una donna che dipinga bene viene considerata come una sorta di attrazione. Bologna, ad esempio, apre le porte degli studi delle sue pittrici come Lavinia Fontano e Elisabetta Sirani agli ambasciatori e agli eminenti personaggi in visita in città, come li si porterebbe a teatro o gli si offrirebbero feste e banchetti. I Medici a Firenze faranno lo stesso con Giovanna Garzoni e anche con le loro musiciste. Artemisia ha già iniziato a produrre lavori in grande formato e di notevole impatto, come la Susanna con i Vecchioni in collezione privata a Potsdam, di difficile datazione ma certo di prima età giovanile, il cui nudo, delicato e robusto assieme, è sorprendentemente vero e intimo, forse studiato sulle forme reali dell'amica Tuzia. Insomma, Artemisia è brava. Orazio conosce molte persone, lavora per i mecenati giusti, la carriera sembra lanciata, ma ma nel maggio 1611 un artista amico, collega e collaboratore del padre, Agostino Tassi, quadraturista, cioè esperto di prospettive e riquadrature a fresco, la violenta. In altri momenti la cosa sarebbe probabilmente morta lì, o meglio, coperta da matrimonio riparatore omertoso. Ma tra Gentileschi padre e il Tassi ci sono problemi precedenti, rivalità di lavoro, problemi di soldi, senza contare che si scopre al momento che Tassi è già sposato e che ha anche, si dice, una relazione con la cognata. Parte la denuncia, si arriva all'inchiesta, al processo. Lo scandalo è enorme e, come spesso accade anche ai nostri giorni, Artemisia è sospettata di connivenza con il suo stupratore. Viene sottoposta a umilianti visite ginecologiche pubbliche, ma anche alla tortura tramite schiacciamento dei pollici, una pratica che su di lei, pittrice, potrebbe avere devastanti conseguenze professionali, oltre che psicologiche e morali. La lettura degli atti sconcerta per la ridda di accuse, controaccuse, ombre e contraddizioni, sospetti e accuse infamanti, come quella di un presunto incesto tra Artemisia e il padre, un miscuglio nauseabondo che rimarrà sempre attaccato addosso alla grande artista per tutta la vita. La storica Mary Garrard ne ha tratto uno studio illuminante sulla scena artistica e sociale romana all'inizio del XVII secolo. Riconosciuto colpevole, ma non senza dubbi, ad Agostino Tassi viene offerto di scegliere tra 5 anni a lavori forzati o l'esilio da Roma, via che sceglie senza esitare. A Roma, Artemisia e il padre rimangono ad affrontare le conseguenze dello scandalo. La cosa migliore per mettere a tacere le voci e far calare il sipario del silenzio sull'evento è un matrimonio. La giovane Artemisia, 19enne, si sposa il 29 novembre del 1612 con Pier Antonio Stiattesi, pittore mediocre e collaboratore del padre. Non sarà un matrimonio infelice, piuttosto un leale rapporto di collaborazione professionale con lo Stiattesi in veste di aiutante di bottega, scandito dalla nascita di 4 figli, di cui però solo Prudenzia vivrà abbastanza a lungo da raggiungere l'età adulta e lavorare per qualche tempo accanto alla madre. È certamente un matrimonio funzionale al buon nome della famiglia, ma la pittrice è ormai compromessa nell'ambiente romano e senza dubbio fatica anche nella convivenza con il padre, resa più difficile dai veleni sparsi dall'inchiesta. È dunque lo stesso padre a prepararle i contatti e le lettere di presentazione per la corte dei Medici a Firenze. Scriverà la granduchessa Cristina di Lorena, moglie del granduca Ferdinando I. Questa femmina, come è piaciuta a Dio, avendola drizzata nella professione della pittura, in 3 anni si è talmente appraticata che posso a dir de dire che oggi non ci si appara a lei, avendo persino adesso fatte opere che forse i principali maestri di questa professione non arrivano al suo sapere. And I had a dream about my old school, and she was there all pink and gold and glittering. I threw my arms around her legs, came to weeping. Nel 1614 Artemisia Gentileschi giunge a Firenze. Qui, ad onta dello scandalo che certo l'ha preceduta, viene bene accolta. La sua pittura e il suo modo di fare la fanno velocemente ben volere. Maria Cristina la favorisce e la dipinge all'epoca alcuni tra i suoi quadri più belli. Una inclinazione per un soffitto di casa Buonarroti, per esempio. Una splendida e appassionata Maddalena risplendente nel raso giallo dell'abito. E le prime redazioni di un soggetto a lei molto caro, Giuditta e Oloferne. Prima di addentrarci nell'analisi dello stile di queste opere, sarà interessante notare che la pittrice deve aver avuto una notevole personalità e certamente un certo livello intellettuale e culturale. Tra i suoi amici troviamo infatti Michelangelo Buonarroti il Giovane, studioso colto e raffinato che la stimerà enormemente, e Galileo Galilei, il grande scienziato. Entrambi rimarranno in contatto epistolare con lei anche quando si trasferirà in altre città, testimoniandole sempre stima, interesse ed apprezzamento. A testimonianza del felice soggiorno fiorentino, tra le opere dell'epoca troviamo alcune delle sue più belle, come la celeberrima Giuditta e Oloferne, di cui eseguirà due versioni, attualmente in Palazzo Pitti a Firenze e a Capodimonte a Napoli, differenziate essenzialmente dai colori degli abiti femminili. L'opera è stata lungamente discussa e interpretata in merito alla vicenda dello stupro, come del resto la Susanna giovanile. Personalmente diffido molto dell'applicazione di teorie psicologiche e interpretazioni biografiche alle opere d'arte, specie così lontane nel tempo. È ingenuo, secondo me, pensare di giudicare azioni e pensieri di epoche passate come se fossero espressione della nostra contemporaneità, dei nostri strumenti di percezione, lettura, analisi ed elaborazione della realtà. Ci è difficile, se non impossibile, afferrare davvero la psicologia e la sensibilità degli uomini e delle donne di epoche remote. Troppi cambiamenti sociali, di mentalità, di percezione intercorsi, troppe le diversità in merito ai più elementari fenomeni dell'esistere spirituale e materiale. Preferisco rimanere al dato reale, che è quello, innanzitutto, della grande capacità tecnica dell'artista. Analizzando le opere di Artemisia Gentileschi, infatti, guardandole per quello che sono, gli elementi che spiccano sono essenzialmente lo stile superbo e la tecnica sicura. Come altrimenti scrisse in una lettera all'amico e mecenate Antonio Ruffo, l'opere saranno quelle che parleranno. L'abilità tecnica ed artistica è certo testimoniata dalla missione all'Accademia delle Arti del Disegno fiorentina, prima donna ad ottenere l'ambitissima e difficile ammissione. Lo stile è quello che colpisce di più, per la forza narrativa travolgente e per la capacità di Artemisia di rinnovare iconografie collaudate e replicate da secoli. Thank you. Siete l'ascolto di Vissi d'Arte, Vissi, questa sera dedicata alla grande pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi. Parlavamo della capacità dell'artista di rinnovare le iconografie tradizionali. Analizziamo ad esempio il bellissimo quadro di Giuditta e la Fantesca di Palazzo Pitti. Le due donne sono presentate in un delicato contrapposto, l'una di fronte all'altra, disposte sulla diagonale e allacciate come in una sorta di danza. Entrambe volgono il viso verso destra, richiamate da qualcosa che attira la loro attenzione con forza, creando sospensione e tensione sottili ma efficacissime. Lo spazio del quadro ne risulta come aperto su qualcosa o qualcuno che noi non possiamo vedere, ma che entra prepotente nella narrazione e ci contagia con la sua urgenza. Guardiamo ora Giuditta Oloferne. Non è importante a mio parere quanto l'opera possa davvero essere meditazione e simbolica vendetta postuma di un affronto alla propria persona. Ciò che mi sembra importante sottolineare è come Artemisia abbia sconvolto secoli di iconografie codificate del soggetto per mettere in scena la forza e la determinazione di due donne unite nello sforzo sovrumano di mobilizzare e uccidere un uomo di proporzioni erculee in un corpo a corpo dalla sensualità perturbante e mai vista prima. Nel 1621 il soggiorno fiorentino volge però al termine. Sembra che i coniugi abbiano problemi di denaro derivati da abitudini troppo dispendiose. Artemisia torna a Roma con la figlia, cui si aggiungerà una seconda figlia nata nel 1627 da padre sconosciuto. Forse quel gentiluomo fiorentino, Francesco Maria Marenghi, cui Artemisia dedica lettere appassionate pubblicate da pochissimo tempo e che ci restituiscono un sorprendente ménage à trois con la parte dello Stiattesi orgoglioso del successo professionale della moglie e ben attento a non intralciarne né la carriera artistica né quella sentimentale. La Gentileschi trova a Roma un mercato che sta ormai abbandonando la lezione caravaggesca per preferire il classicismo luminoso e temperato della scuola dei Carracci o i bagliori dorati e succosi della pittura di Pietro da Cortona. Trova il suo posto nel mercato dei ritratti e delle opere a soggetto biblico, ma le è preclusa la pittura d'affresco, che non conosce e che però è la tecnica più richiesta in città. Tra i suoi nuovi amici includiamo, a riprova della qualità intellettuale oltre che artistica della donna, Cassiano Dal Pozzo, letterato, collezionista, antiquario, uno dei fari intellettuali della città papale. Gets inside, ooh, through her skin. I've been out before, but this time it's much safer. primi anni Artemisia si trasferisce a Venezia nel 1627, ma poi va verso Napoli. Siamo nel 1630 e la città è ancora sotto la magia del passaggio caravaggesco. Di fatto, la città diventerà la sua seconda patria. Tranne alcuni passaggi a Roma e il soggiorno inglese, infatti, è qui che lavorerà, vivrà, continuerà a coltivare amicizie e relazioni, sposerà le due figlie e aprirà bottega frequentata da molti allievi e colleghi come Massimo Stanzione. È ammessa e ben amata alla corte dei viceré, il duca d'Alcalà, e in generale coltiva presto una buona rete di committenti napoletani e siciliani. Il suo repertorio di temi e soggetti si amplia ancora, aggiunge storie mitologiche e nuovi soggetti biblici e per la prima volta lavora per una chiesa. Realizzerà infatti alcune tele per la cattedrale di Pozzuoli, grandi composizioni in cui la matrice caravaggesca di Artemisia si arricchisce di una monumentalità imponente a scandire il tempo diverso, altro, della storia religiosa. Nel 1638 Artemisia abbandona Napoli per raggiungere il padre Orazio a Londra, imperiosamente chiamatevi del re Carlo I, collezionista avido e impaziente. Suo padre muore nel 1639, ma ella continua a lavorare a Londra, sebbene sia difficile attribuirle oggi qualcosa di specifico. Tuttavia, alle prime avvisaglie di guerra civile nel 1642, Artemisia abbandona l'Inghilterra per tornare a Napoli, dove resterà e continuerà a dipingere fino alla morte avvenuta nel 1653. Continuano ad essere testimoniati dalle lettere, ad esempio quelle ad Antonio Ruffo di Calabria, suo grande collezionista e mecenate. Da queste lettere conosciamo un'Artemisia impetuosa, molto orgogliosa del proprio mestiere, consapevole delle difficoltà legate al suo sesso e alle maldicenze che ne derivano, ma anche desiderosa di affermare su tutto il proprio valore di artista e di donna libera. Ne constatiamo anche la cultura, la buona conoscenza delle principali opere letterarie e poetiche della sua epoca e dei letterati, da Petrarca a Ovidio, da Ariosto a Tasso, e la capacità di mettersi a tono con i corrispondenti, sicura, autorevole, pronta a difendere e rivendicare, ma mai servile. Vorrei sottolineare come l'orgoglio professionale di Artemisia Gentileschi sia parte preponderante del suo rappresentarsi e autorappresentarsi. L'unico quadro a lei sicuramente attribuibile tra quelli conservati sul suolo inglese è lo splendido autoritratto nelle vesti di pittura in collezione reale a Windsor. La presenza fisica, sensuale e fiera della donna è pari alla sicurezza con cui impugna gli arnesi della pittura, ostenta la maschera, simbolo della mimesi artistica, e si getta sulla tela con una tale foga da sciogliere la sua pettinatura e semplice eloquenti ciocche vibranti di furia artistica e di ispirazione, vera personificazione dello slancio artistico e creativo di un'epoca impetuosa e appassionata. Nelle sue lettere difende la sua arte, ne sottolinea i pregi, ne rivendica l'originalità. Scrive all'amico Antonio Ruffo che si era raccomandato di dipingere per un suo cliente una galatea diversa da quella che ella aveva creato per lui. Non occorreva di esortarmene in questo, che per grazia di Dio e della gloriosissima Vergine le vostre parole vengono ad una donna che è piena di questa merenzia, cioè di variar soggetti in della mia pittura, e mai si è trovato nei quadri miei corrispondenza ad invenzione etiam d'una mano. Deve anche continuare a difendersi per tutta la vita dalle maldicenze legate al disastro che colpì la sua giovinezza e che fino alla fine continueranno a colpirla, cercando di schiacciarla con accanimento davvero significativo della rabbia causata da una donna fiera, autonoma, di valore. you can go. I stand outside this woman's work, this woman's word. Ooh, it's hard on the man. Now his part is over. Now la storia postuma di Artemisia Gentileschi segue la sorte di tutti i pittori barocchi e specie caravaggeschi. Il volgere del secolo spingerà sempre più verso il classicismo e poi verso il neoclassicismo. L'algida, elegante arte del XVIII secolo troverà repellenti e volgari la teatralità, la passionalità, l'agitazione dell'arte barocca. Come tutti gli artisti della sua epoca, Artemisia dovrà attendere la fine del XIX secolo o addirittura il XX per essere nuovamente apprezzata. È, anzi, tra i primi pittori barocchi ad essere riscoperta, grazie a un pioneristico saggio di Roberto Longhi, intitolato Gentileschi padre e figlia, pubblicato nel 1916. Da questo momento il suo nome trova un lento recupero agli studi. Comincia anche ad apparire nella letteratura grazie ad Anna Banti, ma la svolta avviene con il furore degli studi di storia delle donne a partire dagli anni 70. Purtuttavia, devo dire ancora una volta che la sottolineatura del dato biografico, specie quello dello stupro e della storia di dignità e coraggio che è stata l'intera vita di Artemisia, ha finito per velare e forse spingere in secondo piano la vera gloria della medesima, che è e rimane pur sempre quella di una pittura moderna, innovativa, anticonformista e coraggiosa. Se insistere sulla vicenda dello stupro fu funzionale all'epoca sia per il pieno recupero della figura dell'artista sia per motivi più legati alla storia politica dell'epoca, ritengo sia ormai ora di ricordare Artemisia Gentileschi soprattutto per la grande artista che è e non solo per una vicenda biografica importante, sì, ma che ella seppe superare con forza e dignità per andare oltre. Come ho già espresso recentemente a proposito di Frida Kahlo, auspico che il personaggio non schiacci l'opera. La pur grande e bella mostra milanese dedicata nel 2012 ad Artemisia Gentileschi si apriva con un'installazione di Emma Dante dedicata al suo stupro e al processo. Non è una cosa che ho apprezzato, Mi è sembrato che si inchiodasse ancora una volta Artemisia su quel letto. Pur nel rispetto della sua vicenda personale, vorrei che Artemisia Gentileschi venisse ricordata soprattutto come grande artista, di ottima tecnica, raffinato talento, grande audacia compositiva e forza innovativa. Vi ringrazio per l'attenzione con cui mi avete seguita questa sera e in tutto l'anno. Spero che i temi e le storie trattati siano di vostro gusto e se avete proposte in merito non esitate a contattare la redazione. Questa sera abbiamo ascoltato brani di Kate Bush, Florence and the Machine, opere di Cecilia Bartoli e composizione di Settimia Caccini. Ringraziandovi ancora, vi auguro una buona serata e una splendida estate.